GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sanità, criticità e virtù del sistema regionale nel rapporto della scuola Sant'Anna di Pisa presentato questa mattina a Bolzano. Camionista turco di 32 anni travolto e ucciso nella notte nella galleria Carso, era sceso dal suo tir in panne per andare a posizionare il triangolo di emergenza. Sorpresa ai vertici dell'autorità portuale, il segretario generale Torbianelli rimosso dall'incarico. Intelligenza artificiale a Trieste, la seconda edizione di A-Impact che vuole essere un punto di riferimento sull'evoluzione tecnologica. Crisi Marelli al Ministero, il tavolo che esamina la ristrutturazione aziendale, 850 dipendenti nello stabilimento di Tolmezzo. Udine, 27 dipinti dallo pittore carnico Giovanni Moro, donati dalla famiglia alla Fondazione Friuli. Le 12:31, ancora buona giornata da Dario Ronzoni e Giampaolo Mauro. In apertura i temi della sanità, è stato presentato questa mattina in un convegno a Bolzano il rapporto della Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa sulla sanità in alcune regioni e province autonome. Il rapporto consente di paragonare i progressi o le criticità anche mettendo a confronto le differenti realtà geografiche. La responsabile della ricerca, la professoressa Milena Vainieri per il Friuli Venezia Giulia, ha evidenziato come nel 2024 ci siano stati dei miglioramenti decisi nei parametri rispetto al 2023. Ci sono però ancora delle criticità. Tra queste ha indicato soprattutto l'indice di abbandono dei pronto soccorso da parte dei pazienti. Da un'analisi è risultato che si tratta di pazienti con codici di accesso non urgenti, persone che cercano nei pronto soccorso l'aiuto che dovrebbero avere dalla rete dei medici di base dei pediatri. Nella nostra regione l'anno scorso rispetto al 2023 sono migliorati gli indici dei tempi d'attesa per le cure oncologiche. Ad esempio i casi di tumore all'utero trattati nei tempi previsti sono passati da una percentuale del 73,6% al 92,7% con un miglioramento di 19 punti percentuali. Ancora più spettacolare il progresso per quello che riguarda un tumore più maschile, quello della prostata, che per quello che riguarda i tempi di trattamento previsti è passato da una percentuale del 24,2% nel 2023 al 61,7% nel 2024, con un miglioramento addirittura del 37,5%. Migliorati decisamente anche gli indicatori per i tumori al retto, al colon, alla mammella, alla tiroide e ai melanomi. Crescono, anche se non in modo spettacolare, gli indici dei pazienti, soprattutto degli anziani, dimessi dagli ospedali e seguiti poi dalle strutture a domicilio o in centri specializzati. Il rapporto, sempre per quello che riguarda la nostra regione, ha segnalato un calo del tasso delle vaccinazioni obbligatorie per i bambini, anche se il parametro rimane alto. Il tasso della copertura vaccinale obbligatoria dei minori è passato dal 92,9% del 2023 al 91,9% dell'anno scorso. Un dato che garantisce una copertura vaccinale adeguata, il calo però non dovrebbe essere sottovalutato. Pessimo in regione è invece il tasso di vaccinazione contro il papilloma virus. In Friuli Venezia Giulia è vaccinato il 41% della platea dei ragazzi e delle ragazze interessate, mentre ad esempio in Toscana questo indice supera l'80%. Trieste, Walter Scherk, TGR del Friuli Venezia Giulia. Un camionista di nazionalità turca è stato travolto intorno a mezzanotte da un'automobile all'interno della galleria Carso a Trieste. L'uomo, classe 93, era sceso dal mezzo, un auto articolato che si trovava in avaria in direzione Venezia, forse per posizionare il triangolo di emergenza. Mentre stava camminando è stato investito da un'automobile. Al volante c'era un uomo italiano, classe 59. A nulla sono serviti i tentativi di salvarlo da parte del 118, intervenuto insieme alla polizia stradale e ai vigili del fuoco. Fino alle 4:30 la carreggiata è stata chiusa per l'operazione di rilievo e di rimozione del mezzo. E ora la notizia che questa mattina ha scosso il mondo della portualità, la rimozione di Vittorio Torbianelli dalla carica di segretario generale dell'Authority, notizia non ancora ufficiale ma confermata in qualche modo indirettamente dall'interessato, che tuttavia ha scelto di non commentare. Conferma per il momento indiretta anche da Antonio Gurrieri, parlerà tra pochissimo. Qualche giorno fa Gurrieri è stato nominato commissario straordinario dell'autorità portuale che gestisce i porti di Trieste e Monfalcone, in attesa di diventare il presidente dell'Authority. C'è per il momento solo un comunicato dell'USB che annuncia questa rimozione, parla di fulmine a ciel sereno, la rimozione di Torbianelli da parte del neocommissario Gurrieri, e sollecita naturalmente chiarezza su questa rimozione. Una riflessione concreta sul presente, ma soprattutto sul futuro dell'intelligenza artificiale. Nella seconda edizione di AIMPACT, organizzata da Delex Digital all'Urban Center di Trieste, l'evento vuole diventare punto di riferimento sull'evoluzione tecnologica del tessuto imprenditoriale e creativo della regione. L'AI sta accelerando esponenzialmente, ridefinendo le regole del business. È un abilitatore, potenzia le nostre attività, libera tempo per svolgere quelle a valore aggiunto. In questo crede fermamente Alex Scherlavai, a capo di una tra le più innovative agenzie di digital marketing, ma bisogna fare attenzione. Il nome AIMPACT è dovuto anche più all'impatto dell'AI, e c'è una questione etica dietro, di privacy, no? Quindi uno è dato privacy, capire che tipo di dati alimentare, dove li mandi, che è un grande tema. E la parte etica è il tema a monte, perché puoi usarla come tutti gli strumenti per cose buone e cose meno buone. C'è un impegno da prendersi nell'usarla in maniera etica. Ne ha parlato uno dei 100 professionisti più influenti nel 2024, secondo Forbes Italia, l'avvocato e podcaster Antonino Polimeni, con un intervento sul rapporto tra AI, regolamentazione e responsabilità, offrendo un quadro chiaro tra compliance, etica e opportunità per il business. L'intelligenza artificiale deve essere omocentrica, l'uomo al centro, ed è quello che sta cercando di fare l'Europa. Non è che siamo in ritardo, c'è un tema di lentezza di produzione legislativa. Si è iniziato a parlare dell'AI Act nel 2018 per una normativa che solamente l'anno scorso ha visto la luce. Intanto l'AI sta cambiando il cosiddetto momento zero della verità, il passaggio in cui il consumatore, stimolato da un bisogno, raccoglie informazioni in rete. È un nuovo viaggio del consumatore sul quale si è soffermata Miriam Bertoli, formatrice e consulente di marketing digitale per le piccole e medie imprese. Questo momento zero ancora passa da una ricerca sul motore di ricerca, ma sempre di più passa da una sorta di assistente personale che può essere, per ora, ChatGPT o insomma altre tecnologie simili, ma che sempre di più sarà qualcosa che ci conosce molto bene e che cambierà quindi completamente anche il modo in cui scopriamo nuove aziende, nuovi brand, prendiamo una decisione, acquistiamo. Trieste, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Roma, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è in corso il vertice su Marelli, il colosso italo-giapponese specializzato in componentistica per automobili. All'incontro, che comprende oltre ai vertici del gruppo anche sindacati e governo, si è discusso dei prossimi passi della ristrutturazione dell'azienda. Marelli, a causa di una serie di difficoltà accumulate nel tempo, da una settimana ha aperto la procedura fallimentare attraverso la formula del diritto americano del Chapter 11, che consente di ristrutturare il proprio debito senza cessare le attività. A breve è atteso un cambio di proprietà. Una delle ipotesi è che il fondo KKR ceda quote della società agli attuali detentori del debito, che sono banche e fondi di investimento. In Italia Marelli impiega circa 6.000 dipendenti, di cui 850 in Friuli Venezia Giulia, nello stabilimento di Tolmezzo, considerato dai sindacati quello che sta meglio di tutti a livello nazionale. Con una sentenza recente, la Corte Costituzionale ha ampliato il perimetro dei diritti della persona in relazione alla possibilità del trattamento sanitario obbligatorio. Ora, prima dell'esecuzione dell'ordinanza, è necessario un colloquio con la persona interessata. C'è tuttavia un problema per i tribunali, che vedono aumentare ulteriormente i loro carichi. Dalla riforma Basaglia in poi, per essere ricoverati contro la propria volontà serve un provvedimento del sindaco motivato da due medici allo scopo di preservare la salute del paziente, non più per il mantenimento di ordine e sicurezza. Recentemente la Corte Costituzionale ha emesso una sentenza che garantisce ancora di più i diritti del paziente, quasi sempre psichiatrico, stabilendo che il TSO, trattamento sanitario obbligatorio, deve sempre essere comunicato alla persona interessata e che il giudice deve riceverla in audizione prima di convalidare il provvedimento. La durata massima del TSO è di 7 giorni. In caso di proroga, ancora una volta il giudice dovrà comunicare direttamente all'interessato la necessità di prolungare il trattamento. Alessandra Oretti, direttrice del servizio psichiatrico del Dipartimento di Salute Mentale di Asugi. Una sentenza che noi valutiamo molto importante, molto significativa. Non va a stravolgere, va a ampliare i diritti alla tutela della persona e soprattutto, molto importante, l'audizione da parte del giudice tutelare della persona prima della convalida, quindi entro 48 ore dall'ordinanza. Un ulteriore impegno per i tribunali già sovraccarichi che stanno pensando di usare le videochiamate. Mi rendo conto delle difficoltà operative, immagino grandi città o territori molto ampi. Da un punto di vista sanitario, e quindi io da psichiatra, ritengo che l'audizione della persona in presenza sia un aspetto molto importante e in realtà forse paradossalmente più semplice da realizzare per il paziente. Una persona che si trova in una situazione ovviamente di crisi, di scompenso. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Traffico in aumento sulla rete regionale. In autostrada già questa mattina le prime code a Ugovizza in entrata dall'Austria e rallentamenti sulla A23 verso il nodo di Palmanova. Nel pomeriggio è atteso un incremento dei transiti sia in direzione Trieste sia verso Venezia. Secondo le previsioni di Autostrade Alto Adriatico, domani sarà un'altra giornata da bollino rosso, ma solo per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste dal mattino alla sera e in serata per la A4 in direzione Trieste, in particolare nel tratto a due corsie tra San Donato e Porto Bruaro. Per sabato possibili code rallentamenti già al mattino sulla tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste, e sulla A4 in entrambe le direzioni, in prossimità dagli svincoli direzione mare. Il traffico sarà sostenuto anche sulla A28 in uscita verso Porto Bruaro. La situazione dovrebbe migliorare nel corso della giornata, mentre domenica 22 avremo ancora traffico sostenuto con possibili code rallentamenti in A4 in entrambe le direzioni, sempre in prossimità dagli svincoli di mare. Transiti particolarmente intensi nel pomeriggio all'uscita della barriera di Trieste-Lisert. 12:42, uno sguardo al tempo, abbiamo cielo sereno sul Friuli Venezia Giulia, queste le temperature delle 11, a Trieste 25,5 gradi, a Gorizia 32, a Udine 30,5, a Pordenone 27, nell'area montana a Tolmezzo 27, a Tarvisio 25, a Sappada 23, sul Piancavallo 22, a Forni di Sopra 25, sullo Zoncolan 19, sul Lussari 18 e sulla costa Lignano 29 gradi, a Grado 25,5. Queste sono le previsioni per oggi. Cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa con venti di brezza. Sulla zona montana cielo variabile, saranno possibili deboli piogge o qualche locale rovescio, specie tra Alpi e Prealpi Carniche. Relativamente caldo nelle ore centrali su pianura e costa. Ora ci spostiamo a Udine, dove la Fondazione Friuli ha ricevuto questa mattina una importante donazione, una trentina di dipinti di Giovanni Moro, artista carnico che fu attivo fino al secondo dopoguerra. Un artista friulano ed europeo, le opere di Giovanni Moro entrano a far parte del patrimonio della Fondazione Friuli. 27 pitture sono state donate da due eredi, Nicoletta Rossi Beltrame e Maria Teresa Savio Hawk, emigrata in Australia, da dove ha inviato la maggior parte dei quadri. Sarà compito della Fondazione ora occuparsi della collezione, il presidente Bruno Malattia. Verrà valorizzata con uno studio più approfondito di questi quadri e dell'opera dell'autore e faremo anche una mostra nei nostri locali in autunno o nella prossima primavera. Giovanni Moro visse a cavallo tra 800 e 900, operò anche in centro e sud-est Europa. Nato in Carnia, Ligosullo, si stabilì prima a San Daniele e poi a Udine. La sua produzione spazia dal paesaggio alle nature morte, dai cartelloni pubblicitari agli interni domestici, dai ritratti alle grandi composizioni murali, soprattutto di soggetto sacro. Pali affreschi da lui realizzati sono presenti in chiese friulane e non solo. La storica dell'arte Isabella Reale. È una pittura, diciamo, molto tradizionale, che non conosce ovviamente le avanguardie, ma che elabora comunque con dignità e consapevolezza un proprio paesaggio e sicuramente ha contribuito a costruire quell'immaginario del paesaggio friulano e carnico che anche ancora oggi, diciamo, è una tradizione consolidata. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Coop Alleanza 3.0 dona 200 biglietti per assistere agli spettacoli del Cirque du Soleil in corso a Trieste alle associazioni del terzo settore attive in città e nel Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa è stata illustrata questa mattina. La Coop ha scelto di distribuire biglietti attraverso una rete di associazioni che operano quotidianamente in tutta la regione a favore di persone senza dimora, nuclei familiari in difficoltà economica, minori stranieri non accompagnati, minori seguiti dai servizi sociali e altri soggetti vulnerabili. Non possiamo pensare alla rinascita del Silos, ha spiegato Milva Carletti, direttrice generale di Coop Alleanza 3.0, senza ricordare la sua storia recente segnata da fragilità e marginalità. Con questa donazione vogliamo dare un segnale concreto: la cultura e la bellezza devono essere patrimonio condiviso anche da chi vive una situazione di marginalità. I due spettacoli per il mondo associativo sono quelli del 5 e dell'11 luglio e coincidono con le serate dedicate a Coop. Per quelle date, infatti, grazie ad una convenzione, i soci di Coop Alleanza 3.0 possono acquistare biglietti per lo spettacolo a un prezzo agevolato. Sono oltre 1.000 i soci che hanno approfittato del 20% di sconto e attualmente sono disponibili ancora circa 500 posti. Trieste, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. E siamo agli spettacoli. Il cinema è stata presentata oggi a Trieste la 26esima edizione dello Shorts International Film Festival, che si svolgerà dal 28 giugno al 5 luglio. In programma un totale di 132 opere, di cui 117 corte, distribuiti in 7 diverse sezioni di concorso. Tra queste c'è la storica Mare Metraggio. Le proiezioni avverranno principalmente al Giardino Pubblico Muzio di Tommasini e al Teatro Miela. Quest'anno il focus è dedicato al cinema breve libanese, di cui si mostreranno in chiusura 6 corti recenti. Tra le novità, il ritorno della sezione Campolungo, che quest'anno punta sul giovane cinema francese, approfondendo il rapporto creativo tra la regista Aude Léa Rapin e la produttrice Eve Robin, mentre non mancheranno masterclass, incontri e premiazioni rivolte a protagonisti del cinema italiano come Francesco Gheghi, Barbara Ronchi e Pierfrancesco Favino. E uno degli eventi di questa prima parte dell'estate, il viaggio a REM, che va in scena questa sera alle 21 sulla piazza transalpina di Gorizia Nova Gorizia, trasformata in lussureggiante giardino con la stazione che diventa ottocentesco albergo termale in virtù di una straordinaria scenografia virtuale. Il viaggio a REM è l'opera che Gioacchino Rossini scrisse per l'incoronazione di Carlo X di Borbone a re di Francia. Il sovrano poi morì a Gorizia ed è sepolto nel monastero di Castagnevizza. Si tratta di una coproduzione davvero senza confini, con cast italo-sloveno, l'orchestra dell'opera di Lubiana, regista croato e scenografo austriaco. Il maestro concertatore, direttore d'orchestra, e lo sloveno Marco Hribernik, dirige il coro Elia Macri. E si apre a Trieste la 10ª edizione di Festile, il festival estivo del litorale, con la prima nazionale dello spettacolo Peito, Persuasione, di Irene Petrazzani, un testo ispirato all'opera dell'intellettuale goriziano di inizio Novecento, Carlo Michael Stetter, La Persuasione e la Retorica. Inizio alle 21 in Sala Bartoli del Politeama Rossetti. Sul palco ci sarà l'attrice Federica Fracassi. Le abbiamo chiesto come è stato restituito in scena un testo filosofico così complesso. Irene Petrazzani, che è l'autrice del testo, ha pensato di creare due strade parallele che a un certo punto invece si incontrano e si intersecano, si sovrappongono, si uniscono in un unico fiume. E queste due strade sono la strada di quella che viene definita come la persuasione di Peito, cioè la dea greca che persuade alla guerra in sostanza, cioè quindi è tutta la storia, un attraversamento chiaramente simbolico della storia della cultura occidentale che noi abbiamo ereditato anche dal teatro greco, con tutta la serie di ammazzamenti, vendette e incitazioni alla guerra che da cui la dea si discolpa, perché dice in fondo siete voi uomini che perpetrate questo tipo di persuasione alla violenza. Dall'altra parte la storia invece di Carlo Michelstetter, che nel testo viene chiamato il ragazzo, sulla cui vita chiaramente Irene Petrazzani insiste e va verso un parossismo, perché porta Carlo a uccidersi, gesto che lui ha fatto nella vita veramente per un gesto di non violenza in sostanza, cioè perché non vuole, sente l'arrivo della prima guerra mondiale, quindi lui crede a una persuasione differente, una persuasione con gli occhi chiari, che è una persuasione che invece significa essere persuasi in se stessi e quindi si differenzia dalla retorica. A un certo punto però queste strade si incontrano e lui è una sorta di Oreste contemporaneo. Quante persone persone ci saranno in scena? In scena siamo in tre. Io interpreto Peito della Persuasione, abbiamo un attore tra l'altro greco, Dimitrios Papasiviliou, che in realtà è Carlo, e poi abbiamo invece un sound designer che con cui io desideravo molto lavorare, perché mi ero immaginata fin da subito immersa in un paesaggio sonoro, proprio per la potenza anche delle parole di René Petrazzani, e quindi lui è funzionale sia a creare questo paesaggio sonoro in cui noi ci muoviamo, sia anche a volte a mandarci le parole del coro. Tra gli altri spettacoli di oggi, il concerto a Miramare davanti al castello dell'Orchestra dei Pomeriggi Musicali, diretta da Alessandro Cadario con il pianista Davide Cabassi. La storica formazione milanese festeggia i suoi 80 anni nel quadro del cartellone estivo della Società dei Concerti, che si chiude con questo appuntamento. Nel programma della serata il concerto per pianoforte e orchestra numero 5 in Mi bemolle maggiore, opera 73 di Beethoven, il cosiddetto Imperatore, e la sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90, detta italiana, di Mendelssohn. L'inizio alle 20:45. E alla stessa ora l'appuntamento d'Aquileia in Basilica per il concerto di Philipp Pelster, organista titolare della cattedrale di Salisburgo. Folkest fa invece tappa a Gorizia, a Palazzo de Grazia, alle 20:45, il concerto dei Phoenix, una delle più rinomate band folk danesi. Ed è stato presentato oggi il Festival Internazionale Nei Suoni dei Luoghi, arrivato alla sua 27esima edizione, in calendario oltre 40 date. Si comincia il 4 luglio all'hangar dell'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia con il concerto dedicato a Fausto Romitelli, compositore goriziano scomparso nel 2004. Sarà eseguita la sua opera Professor Bad Trip con l'ensemble belga Ictus. Numerosi anche i concerti transfrontalieri per celebrare Go 2025, come I Suoni della Pace il 31 agosto nella grotta di Krompirjeva di Castagnevizza del Carso, e il progetto Doppia Coppia dell'attore Neri Marcorè, in programma domenica 7 settembre alla Dolina dei 15 Bersaglieri a Ronchi dei Legionari. Al Kulturni Dom di Gorizia il 25 ottobre toccherà ad Antonella Ruggero insieme al cantautore sloveno Vlado Kreslin. Si chiude il 12 di dicembre al Teatro Odeon di Latisana con il concerto Vive la France con la pianista Gloria Campaner. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Dario Ronzoni e Giampaolo Mauro. Grazie per il coordinamento tecnico a Eugenio Giuffrida e a Mauro Cumin, e grazie a Valentina Veneruso che ha collaborato in redazione. 12:52 in questo istante, prossima edizione alle 15. Grazie per il vostro ascolto e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.